Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Quando vedo le luci del faro Bocca, comincio l'avvicinamento al Golfo di Olbia. È una manovra che avevo già fatto centinaia di volte. Guardo l'orologio, sono le 3, forse le 4 del mattino. Il sole tra poco si vedrà alle nostre spalle. E poi, improvvisamente, la radio inizia a gracchiare. Le parole sono chiare, sono quelle che nessuno vorrebbe sentire. Mayday, mayday, mayday. Nave Clearcos, stiamo affondando. Mi chiamo Alessandro Perra, ho 52 anni, sono nato a Cagliari, ma da sempre vivo a Olbia e sono sposato. Non so se è una cosa comune a tutti, però, grosso modo, delle varie fasi in cui si divide la vita di ognuno di noi, ce ne sono due che hanno a che fare con il realizzare che non si è infallibili. Cioè, che tutto quello che pensavamo riguardo all'essere forti e capaci e in grado di fare qualsiasi cosa, a un certo punto crolla. Di solito crolla per un evento traumatico, ma magari non per forza traumatico, però crolla per un avvenimento, per qualcosa che accade indipendentemente da noi, o magari peggio ancora invece, che accade per colpa nostra e che non siamo in grado di evitare. Ecco, in quel momento lì capiamo banalmente di non avere i superpoteri e capiamo che probabilmente il mondo ci somiglia un pochettino di meno di come lo immaginavamo. 349-238-6666 è per mandare i vostri sms, oppure voi siete qui @radio24.it per mandare le vostre mail, perché oggi si parla di questo, si parla di quel momento in cui abbiamo realizzato che no, eravamo fallaci, non eravamo infallibili. Il racconto di oggi è un racconto di Alessandro Perra, che parla di una storia anche abbastanza avventurosa. Questa appartiene alle categorie avventura. Noi facciamo così quando arrivano i racconti, che continuano ad arrivare, a voi siete qui @radio24.it, li dividiamo un po' per categorie e ci sono, devo dire, ce ne sono diverse. Abbiamo famiglia, tanta roba, famiglia, no? Amore, abbiamo lavoro, abbiamo infanzia, solo che in realtà l'infanzia poi si divide in varie ramificazioni, però insomma è abbastanza ampio come categoria. Abbiamo animali, abbiamo sport, abbiamo avventura, e questo credo sia stato uno dei primi proprio a essere catalogato come avventura. Abbiamo giallo, abbiamo uno tipo una specie di thriller, mi pare, una roba del genere. Sì, è un po' come l'oroscopo, bravo, cioè amore, salute e lavoro, diciamo i tre grandi pilastri che interessano agli uomini al giorno d'oggi. Insomma, quando arrivano i vostri racconti e li leggiamo tutti e li dividiamo in categorie, poi li peschiamo, no, non a caso, c'è chiaramente un grande cervellone che si mette lì, è automatico, che seleziona i racconti da mandare in onda. E oggi è capitato questo, quello che riguarda le storie di avventura. Poi chiaramente il tema è un altro, il tema in questo caso è proprio quello di realizzare che non si è infallibili. Continuate però a inviare i vostri racconti, voi siete qui @radio24.it, una pagina per piacere, non di più, una foto per piacere, non di più, un episodio che racconti qualcosa che vi sia realmente accaduto, un racconto vero della vostra vita, una piccola storia che vi sia accaduta ma che sia reale, perché per due motivi: primo, perché ci interessa quello; secondo, perché vi sgamiamo in un attimo proprio. C'è Bonini che ha una specie di sonar per i racconti, di solito scrive "questa è fiction" e tira su una bella riga. D'altra parte, in università dalle nostre parti si fa un po' così. Se volete riascoltare il programma, c'è anche un podcast, ovviamente come tutti i programmi di Radio 24, e c'è una sezione podcast sulla pagina di Radio 24, ma c'è anche una sezione su iTunes dove potete abbonarvi gratuitamente a questi podcast, e quelli ve li scarica in automatico tutti i giorni. Voi siete qui, ripeto, voi siete qui @radio24.it. Sono arrivati dei messaggi già sul profilo Facebook del programma che parlano esattamente di questo, come quello di Rebecca. Rebecca dice: scoprire di non essere infallibili non è poi così male, ti fa prendere fiato, ti fa perdonare te stessa se non hai fatto tutto. Sapere di avere dei limiti a volte credo sia il primo passo per perdonarseli. E poi ancora Fabio, dov'era? Quello di eccolo qua. Fabio: da giovane, vita all'aria aperta, sport di ogni tipo, pallavolo, calcio, bicicletta, montagna, corse, salti, allenamenti e alimentazioni da far rabbrividire. Un maiale. Io credevo che invece tipo alimentazione perfetta, invece no. Un maiale. A 30 anni, all'epoca facevo box, corsa e palestra, una colica renale mi porta al pronto soccorso e lì scopro di avere un rene solo. pensavo di avere i superpoteri ed è stato come una sbattere la faccia contro il muro. 349-238-6666, si parla di infallibilità e se ne parla così. Era l'alba del 14 luglio 1979. Era un sabato, un magnifico sabato in Costa Smeralda. Si presentava davanti a noi, le ragazze ci aspettavano. Ancora poche ore e sarei sceso dalla CP235, la motovedetta su cui all'epoca prestavo servizio. Avevamo trascorso la notte in mare, la ricordo ancora come una notte lunga, particolarmente fredda per essere a metà luglio. E poi il vento di maestrale non ci aveva dato tregua. Ancora due, forse tre controlli. C'era poi quella nave cargo proveniente da Capo Pertusato che i francesi ci avevano gentilmente affidato per poter andare a festeggiare la loro festa nazionale, la presa della Bastiglia. Era una rogna, ci avrebbe fatto quasi sconfinare in acque francesi, ma all'epoca, a 18 anni, avremmo fatto di tutto per una cassa di cognac. Saremmo anche andati all'inferno e tornati per molto meno. Io ero preoccupato per questo fuori programma, come non l'ero mai stato. Continuava ad avvisare il comandante che a quella velocità e con quel vento così forte e contrario avremmo avuto qualche problema al rientro. Mi rispose che tutti sapevano remare e risero delle mie paure. Lo feci anch'io. Avvistammo il mercantile, lo abbordammo, controllammo i documenti e fine dell'inseguimento. È un lavoro che mi è sempre piaciuto e ho sempre desiderato farlo, è stato un destino in realtà già segnato perché mio padre già faceva questo lavoro e in realtà poi per un sardo è un percorso abbastanza automatico, noi siamo cresciuti guardando il mare ogni giorno, che non potevo fare nessun altro lavoro credo nella mia vita. Quando vedo le luci del faro Bocca comincio l'avvicinamento al Golfo di Olbia, una manovra che avevo già fatto centinaia di volte e anche in condizioni più critiche, ma qualcosa non va. Siamo troppo lenti. Il vento è di fronte. Penso che arriveremo tardi. Pazienza. Guardo l'orologio, sono le 3, forse le 4. Il sole tra poco si vedrà alle nostre spalle. E poi, improvvisamente, la radio inizia a gracchiare. Gracchia parole molto chiare, sono quelle che nessuno vorrebbe sentire. Mayday, mayday, mayday. Nave Clercos, stiamo affondando. Ci sentite? La posizione è vicina a noi, ma non vediamo la nave, perché è dietro l'isola di Tavolara. Conosco il comandante e prima ancora che me lo dica, prendo la carta, faccio un calcolo veloce e dico 20 minuti siamo là. Sappiamo entrambi che se dovessimo rimanere in zona per altri 20 minuti non avremmo il carburante per rientrare. E non sarebbe una cosa carina. Ci stiamo cacciando in un guaio, ma ci sono cose che fai senza chiederti per quale motivo lo devi fare proprio tu. Un motivo non c'è, se non che sei tu ad essere lì e quindi non puoi tirarti indietro. Sento solo il rumore delle onde interrotto dal vento. È il colpo sordo che fa la barca quando cade in avanti, perché l'onda leva l'acqua da sotto lo scafo facendola rimanere in aria per istanti interminabili. Nessuno di noi parla, al diavolo il sabato e al diavolo pure le ragazze. Quando si arriva in zona siamo stati preceduti da un rimorchiatore, sembra tutto a posto, e invece dopo un rapido giro di informazioni scopriamo che la barca in difficoltà ha un equipaggio composto da 14 membri e ne sono stati recuperati 12. Ne mancano due. Bisogna stare in zona, non è finita. Quando fai questo tipo di lavoro passi la vita aspettando un momento del genere ma anche temendolo, perché comunque hai paura di scoprire di non essere in grado di fare quello per cui hai vissuto, per cui hai lavorato, che speri di fare per tutta la vita. Comunque poi mi ricordo soprattutto la paura di non riuscire a salvare la persona che stavamo cercando, di trovarla troppo tardi, quindi era una sensazione molto forte. Partono imprecazioni di ogni tipo. Il mare sta vincendo. Facciamo ampi giri intorno al relitto che sta affondando. L'adrenalina si mescola al sudore. Il rimorchiatore è più fortunato, ne recupera un altro. Siamo a 13. Non c'è tempo, il carburante sta per finire. Dopo qualche minuto il comandante ordina il rientro. Lascio il timone al caponocchiere. Gli dico di farlo, di fare un ultimo giro, di fingere di non avere sentito. Un passaggio veloce e poi via, via di corsa, come dei ladri, come dei pirati. Lui esegue una manovra perfetta. È bravissimo. È il migliore. Passa così vicino al relitto che si sente l'odore del metallo della nave mercantile. Ma ormai è tardi. Nave Clercos, mercantile greco, 14 membri di equipaggio, 13 uomini, più uno. Era il 14 luglio del 79. I francesi festeggiavano la presa della Bastiglia. Knock, knock, knocking on heaven's door. knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. E quando scopri che il mondo non ti somiglia, che capisci i tuoi limiti. Io ricordo un tempo in cui non avevo alcuna preoccupazione riguardo al modo in cui stavo al mondo. Non andavo nel panico pensando che c'erano cose che potevo o non potevo fare. E non mi spaventavo nemmeno al pensiero di non essere in grado di fare qualcosa. In quel tempo lì le cose sono a portata di mano. La allunghi e le prendi. Il mondo è tutto alla tua altezza. Non pensi che ci sia qualcosa di irraggiungibile o qualcosa di così basso che sarebbe meglio non vederlo. Pensi che non ci siano le persone stupide, che non ci siano cose brutte. Valuti tutto in base a quanta curiosità ti suscita quella cosa, a quanto hai voglia di scoprirla e di farla entrare nel mondo delle tue cose, quelle a portata di mano. Quel tempo che abbiamo vissuto tutti dura più o meno fino ai 5 anni. Dal 6° in avanti la pacchia finisce. Tutto più o meno dipende dall'inizio della scuola, e quindi poi del lavoro e della vita sociale. Rendersi conto di avere degli obblighi, cioè che qualcuno ci impone di alzarci la mattina, di andare in un posto insieme ad altre persone, dove ci toccherà di dimostrare di essere all'altezza di standard che qualcun altro ha scelto per noi. Ecco, quello è il primo passo verso la responsabilità. Ma quello è il cammino obbligato, quello comune a tutti. Ognuno di noi però ha vissuto una propria personale, anche piccola, perdita dell'innocenza. Quello è un momento spesso inafferrabile e non prevedibile. È qualcosa che succede per caso, a volte improvvisamente. È una sorpresa che ci spiazza, è un lutto, un esame che non pensavamo lo fosse, una mancanza, una gioia, una separazione o una vita che non ci aspettavamo. Se devo pensare al momento in cui io l'ho persa, quella piccola innocenza, penso al giorno in cui mi sono spaccato un braccio cadendo da un muretto alto così. Non è stata una cosa grave. Nessuno si fece male irreparabilmente, però qualcosa si ruppe e non fu solo il mio omero. Avevo 17 anni, stavo partendo per il mare con tutta la famiglia. La macchina era carica e mio padre era già seduto al volante. Aspettavamo solo che mia madre e mia sorella scendessero per salire e partire. Io aspettavo le vacanze estive come ragione di tutto quello che facevo durante l'anno e nella mia testa le programmavo fin nei minimi dettagli. Gli abiti da portare, le cose da fare, ordinate nell'arco di ogni giorno e poi nell'arco delle 3 settimane. I giorni di sole, quelli di vento, quelli di pioggia se ce n'erano. Sentivo che potevo decidere tutto di me e del mondo intorno. La mattina del 28 luglio del 1992 però salì su quel muretto sotto casa e quando scesi lo feci in malo modo e l'osso del braccio si spezzò qui, appena fuori dalla clavicola. Mi ricordo che con la macchina carica andammo al pronto soccorso. Io mi reggevo sto braccio durante il tragitto e tranquillizzavo tutti, mia sorella, i miei genitori, anche me stesso. Lo sentivo l'osso staccato, però facevo finta che tutto fosse a posto perché avevo pianificato tutto e nulla poteva andare storto. Sapevo che in ospedale mi avrebbero ingessato, poi saremmo partiti. Non avremmo nemmeno perso il traghetto. Partimmo 2 settimane dopo, con 10 giorni di ricovero sulle spalle, un'operazione e 3 viti nel braccio. E ricordo bene il momento in cui io mi risvegliai dall'anestesia dopo l'intervento. Ecco, fu in quel momento lì, di emersione dal nulla, che realizzai che non era vero che il mondo mi assomigliava. Perché il mondo che io mi ero preparato non mi prevedeva in un letto d'ospedale, pallido e con un braccio immobilizzato. No, mi prevedeva al mare, a remare su un canotto e a raccogliere stelle marine. Ovviamente ci furono episodi più tristi di quello. Ci furono perdite, ci furono separazioni, gli anni dopo, a seguire. Cose anche più gravi di un osso che si rompe. Ma quando penso al momento in cui quell'innocenza lì un po' se n'è andata, mi viene in mente proprio quella mattina di fine luglio, in cui la vita come io me la immaginavo se ne andò a gambe all'aria, cadendo da quel muretto. E io capii che non ero più il fautore unico della mia esistenza e in fondo nemmeno delle mie vacanze. We'll be right back. poche settimane fa mi scrive Donato: ultimo esame del secondo anno di lettere classiche a Roma, è latino e io so che deve andare bene, e in genere so cavarmela all'università. Entro stranamente teso, poi passo mezz'ora come da fuori a sentirmi parlare e prendere assurde cantonate durante l'interrogazione, ma non riesco a fermarmi. Per la prima volta faccio un pessimo esame, rifiuto il voto e chiedo al mio professore di rifarlo. Lui dice sì. Sta in silenzio, poi aggiunge: sa una cosa però? Non so se la sua preparazione potrà comunque andare oltre al 25. 349-238-6666, il momento in cui avete capito che eravate infallibili, coincide con qualcosa che vi accade per colpa vostra o che invece accade e basta, semplicemente voi non potevate farci nulla. Voi siete qui, @radio24.it. Mi è venuto in mente un episodio mentre rileggevo il racconto di Alessandro e mentre preparavo questa puntata. È un episodio di cui avevo parlato qualche giorno fa, è successo un paio d'anni fa e riguardava un aereo che aveva un problema e doveva, invece che tornare all'aeroporto, non riuscendo ad atterrare, finire in un fiume. E ha a che fare con l'infallibilità, anche se in questo caso la storia è finita molto bene. Vi avevo raccontato com'era andata a finire, semplicemente quando tutto un aereo con 155 passeggeri a bordo era riuscito ad ammarare nell'Hudson. Ed è successo tutto il 15 gennaio del 2009. Sono le 3:30 del pomeriggio. A New York ci saranno pochi gradi sopra lo zero. All'aeroporto della Guardia un aereo sta per decollare. Deve andare a Charlotte, North Carolina. È il volo 1549 della US Airways. L'aereo decolla e subito però il capitano si accorge che c'è qualcosa che non va. Un motore si è spento e il motivo è che un uccello ci è finito dentro. In poco meno di 3 minuti dal decollo però tutto quello che può andare storto va storto e anche il secondo motore si spegne. Il capitano si chiama Sally Sullenberger, è un signore anziano che ha qualcosa tipo 42 anni di esperienza sulle spalle e fa la cosa che deve fare, lancia immediatamente un SOS verso la torre di controllo. Mayday, mayday, mayday. Cactus 1549. Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left heading up 220. Stop you to park, he's got emergency returning. Deve fare un ritorno d'emergenza, un atterraggio d'emergenza, quindi deve tornare indietro con tutto il suo aereo e i 150 passeggeri a bordo. In pochi secondi però si accorge che non ce la fa ad arrivare né alla guardia né in nessuno degli aeroporti che gli segnalano per poter atterrare. Gliene propongono uno dietro l'altro, aeroporti nel New Jersey, un altro appena a nord di New York, ma lui gli fa capire che non ce la fa. E quindi alla domanda che cosa ha intenzione di fare, lui risponde: scendo sull'Hudson. Cactus 1529, turn right 280, you can land runway 1 at Teterboro. We can't do it. Okay, which runway would you like at Teterboro? We're going to be in the Hudson. Scendiamo nell'Hudson. Ho messo questo video sul profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia, io sono qui. La storia, i personaggi e il protagonista, lui soprattutto, il capitano, sembrano veramente usciti da un film, però sono americani e quindi probabilmente a noi sembrano per forza uccidere un film. Questa è una bella storia che parla proprio di infallibilità e di possibilità di non farcela, ma fino all'ultimo minuto, fino all'ultimo secondo, fino al momento in cui in realtà ti accorgi che invece ce l'hai fatta e probabilmente toccherà aspettare la prossima volta per capire che forse non sei proprio infallibile. Caro Matteo, mi chiamo Giulio e ho 42 anni. Nella vita faccio il meccanico. Ho imparato da ragazzo a trusciare con i motorini dei miei amici e non ho più smesso. Adesso lavoro per un'officina grande del mio paese e il mio lavoro mi piace tanto. Così tanto che ho sempre pensato di essere il più bravo, quello che sa fare meglio le cose, quello che gli dai una macchina distrutta e te la rimonta meglio di come era prima. Qualche tempo fa ho addirittura pensato di scrivere un manuale per la messa a punto dei carburatori d'epoca, perché nelle macchine antiche la carburazione è un po' come la digestione, se non funziona quello, tutto il resto ne risente. Poi un giorno il papà della mia fidanzata mi ha portato la sua moto, una vecchia BMW, messa molto male, da sistemare. Mi ha chiesto se ero in grado di farlo e ovviamente gli ho risposto che certo che lo ero. In realtà non mettevo mano ad una moto da anni, però ho pensato che non sarebbe stato complicato. Insomma, per fartela breve, dopo una settimana di lavoro notturno su quella maledettissima moto, ho dovuto cedere e chiamare un amico che si occupa di aggiustare moto. Per me è stata una sconfitta enorme. A A mio suocero non l'ho detto, ma dentro di me è stata una sconfitta davvero grande. Ero convinto di poter riparare tutto, di poter aggiustare qualsiasi motore. E non è andata così. La mia vita non è cambiata, ovviamente, ma dentro di me ho perso qualcosa. Continuo a lavorare alle automobili. E va bene così. Ciao, Giulio. Grazie a Giulio che ha scritto a voi siete qui, @radio24.it, ma anche a... dov'è? Bruno. Bruno, 349-238-6666. Ciao Matteo, 11 settembre 2002, sta roba del volo, dell'atterraggio, ha fatto partire un loop sui voli aerei. Ripeto, 11 settembre 2002, volo Verona-Roma, atterraggio di emergenza dopo un precedente Brindisi-Roma? BS, Brescia. Brescia-Roma fallito nella stessa giornata, ma io sono ancora qui. Bruno, noi siamo contenti per te. No, non ho solo capito se eri un passeggero o se eri un pilota o chi presso. Viviana invece scrive: ogni giorno mi sento infallibile, non concedo alla mia malattia di cambiare la mia allegria. L'ho capito subito che non ero infallibile da piccolo, mi facevo male in continuazione e perdevo sempre giocando a biglie. Stefano, ognuno ha i propri modi per capire la propria infallibilità. Prima vi ho raccontato la storia del capitano Sally Sullenberger, andate a vedere il video perché anche, guardate, a parte che parlo un inglese abbastanza comprensibile, purtroppo non ci sono traduzioni in italiano su YouTube, ma anche solo percepire la serenità con cui quest'uomo dice: ho due motori fuori uso, ho 150 passeggeri a bordo e sono sopra una delle aree più popolose del mondo, sono sopra New York e mi rendo conto che l'unica cosa soffice su cui atterrare è il fiume. È una piccola lezione. La cosa che stupisce di quella è proprio quella, è proprio la serenità con cui lui parla. E a proposito di serenità con cui si raccontano si racconta la scoperta dei propri limiti, c'è un pezzo che vi voglio leggere che è tratto dal diario di Sir Robert Scott, che all'inizio nei primi 10 anni del secolo, attorno al 1912, fece una spedizione al Polo Sud. Era un'epoca in cui il Polo Sud era una roba tipo che era un puntino su una mappa, e questo ci andò di persona, ci andò e non ci tornò più. Mentre era là però scrisse questi diari, scrisse delle lettere strazianti alla moglie, intitolandole "Alla mia vedova", e scrisse anche una lettera a un onorevole, e la calma con cui racconta di come sta finendo la spedizione è magistrale. All'onorevole Sir Edgar Spyer Barth, 16 marzo 1912, latitudine 79 gradi est. Mio caro Sir Edgar, spero che riceverà questa mia. Temo che dovremmo morire e che la cosa metta la spedizione in un brutto pasticcio. Ma siamo stati al polo e moriremo da gentiluomini. I miei rimpianti sono solamente per le donne che lasciamo. La ringrazio mille volte per il suo aiuto, il suo appoggio e la sua generosa gentilezza. Se questo diario verrà ritrovato, esso dimostrerà che siamo rimasti uniti da veri compagni in punto di morte, battendoci sino alla fine. Ce l'avevamo quasi fatta, ed è un peccato non esserci riusciti, ma di recente ho capito che eravamo andati oltre i nostri limiti. Nessuno deve essere incolpato, e spero che non vi saranno tentativi di insinuare che ci sia mancata l'organizzazione. Addio a lei e alla sua cara e gentile moglie. Sempre sinceramente, suo Robert Scott. Ce l'avevamo quasi fatta ed è un peccato non esserci riusciti, ma di recente ho capito che eravamo andati oltre i nostri limiti. Questo, ripeto, era un pezzettino di quel diario, il diario di Sir Robert Scott, 1912. A proposito di limiti e di imparare a conoscerli, Stefano, che credo sia un ciclista, mi ha scritto: in bicicletta, appena la strada sale, la prima cosa che mi viene da pensare è: ma chi me l'ha fatto fare di venire fino a qui? E inizio a imprecare dal primo all'ultimo chilometro. Non c'è cosa peggiore che mettere il piede a terra quando non ce la fai più. Lo diceva anche Miguel Indurain, mi sembra 5 Tour de France vinti, dice lui, forse 6, no 5 perché ne ha vinti 7 Armstrong. Il vero campione, scrive Stefano, è colui che per primo riconosce i propri limiti. Io comunque, mi dice Stefano, pedalo imprecando fino all'ultimo chilometro ogni giorno. Io ringrazio lui, ringrazio Paolo Corleoni, ringrazio Tiziano Bonini, Stefano D'Andrea, ringrazio anche Viola Bottoni che è di là con noi e Margherita Ina pure. Vi ricordo che c'è un profilo Facebook del programma, andate a vedervi l'intervista al capitano, che è Matteo Caccia, io sono qui, ci sono dei podcast sia sul sito, su iTunes. Per scrivere invece voi siete qui, @radio24.it. La storia di oggi, quella che avete sentito, era la storia di Alessandro, che parlava di USS, di Mayday e di infallibilità. La storia di domani invece è la storia di Umberto, e racconta di quello che pensano gli animali. Anche la mosca sembrò sensibile a tutto questo, e dopo qualche minuto decise che era meglio stare fuori che dentro, che era meglio dare un'occhiata al lago, e se ne uscì anche lei dalla macchina. Così, senza che agitassi le mani o cercassi di ammazzarla. E sembrava che le piacesse. Iniziò a volare velocemente sulla spiaggetta, giocando a tuffarsi in acqua, per poi deviare di colpo, evitando l'impatto. Giocò a zigzagare fra i rami degli alberi e a disegnare cerchi nell'aria. E io la guardavo, stupefatto.